Talker. Non ricordo esattamente tutte le date del tour italiano di Nick Cave, però vi posso ricordare ad esempio la data milanese che si terrà il 28 maggio all'Alcatraz di Milano, Nick Cave and the Bad Seeds con Dig Lazarus Dig. C'erano anche i Korn con noi, ora ascoltati con Haze. Adesso invece torniamo in Inghilterra, dove per noi c'è veramente un grandissimo personaggio, sempre molto attivo, tra tournée, tra album, tra viaggi, soprattutto anche in Italia, Italia che lui ama parecchio. E stiamo parlando di Morrissey, questa è That's How People Go Up. I was wasting my time trying to fall in love. Disappointment came to me and rooted me and bruised and hurt me. Catch me and see. Morrissey con That's How People Grow Up. C'erano anche i Millen Collin con Detox. Grandi Millen Collin, sono recentemente passati in Italia proprio qualche giorno fa, ed è un peccato che non siano riusciti a tornare qui nei nostri studi, anche perché quella sarebbe stata l'occasione, o quella o mai più. E loro sono sempre stati molto gentili, molto carini con noi. Un saluto, ci avrebbe fatto piacere. Vabbè, pazienza. Adesso invece ritroviamo un successo dal passato. Sono i Moist con Resurrection. I'm wishing I could stay, but I'm sorry, my old friend, I've got to leave you once again. And despite what I might say, there's a pleasure by the pain, there's a pleasure by the twisting of the metal in the vein. And it might be very hard, can't be more than what we are. Molto di questa band, però vi posso dire che diversi anni fa questa era spesso e volentieri in programmazione. Chi ci segue da tempo sicuramente ricorderà questa Resurrection per i Moist. Ricorderemo ad esempio in futuro anche questa canzone spesso e volentieri, perché io vi ho fatto due palle così con questa band e con questa canzone, B perché speriamo che tra qualche anno siano ancora più famosi. E sto parlando dei Bullet for My Valentine, arriveranno tra poco, insomma, a metà giugno in Italia, e ce li ascoltiamo, guarda un po', ancora una volta, con la loro Scream and Fire. Right now it's killing time. Oh, that's wrong, oh, that's wrong. Dopo i Bullet for My Valentine con Scream e Empire, i Eden Circus ora ritrovati con Punk Lullaby. Ancora una volta bentrovati invece su Rock FM, oggi in versione un po' virtuale, ma come stavo dicendo all'inizio del programma, Giurin Gioretta è l'ultimo giorno, poi da domani fino al 31 maggio assolutamente presente, assolutamente live, assolutamente in diretta. In arrivo Terror Vision, ricordo sempre con molto piacere le loro interviste, perché era un classico ritrovarli in condizioni pietose, ma pietose perché loro arrivavano tipo il tardo pomeriggio a Milano, la sera uscivano a mangiare, poi uscivano e si ubriacavano come degli animali, e quindi il giorno dopo, in occasione delle diverse interviste, erano a pezzi, e qui in radio regolarmente arrivavano molto stanchi, con sta fiatella alcolica che t'ammazzava al volo. Quando arrivavano ti dicevano hi e tu ciao, e già lì praticamente eri biondo platino, ma loro erano belli così, veramente i numeri uno. Quanto erano divertenti. Poi si sono sciolti, vabbè, chissà cosa stanno facendo. Terror Vision, quest'oggi li ascoltiamo con My House. Hey, my house, there's a place you can hide when I feel free.